sabato. Marzo 2023. A sostegno della Cassa di Solidarietà La Lima. In concerto a Strike suoneranno Bliss, Leo Fulcro Band, Serpe in Seno e i Tear Me Down con il loro nuovo 7 pollici Split Tear Me Down Contraste. Sabato 4 marzo 2023, dalle ore 22, a Strike, in via Umberto Partini 21, Roma. A sostegno della Cassa di Solidarietà La Lima.